بسم الله الرحمن الرحيم. Nel nome di Allah, il sommamente misericordioso, il clementissimo. Le 40 tradizioni eccellenti raccolte dall'Imam An-Nawawi, che vanno sotto il nome di Al-Arba'ina An-Nawawiya. Il testo arabo, la scheda biografica del primo narratore, la fonte, la mia traduzione dei 42 hadith e le mie 40 lezioni relative a ciascuno di essi si trovano nel libro intitolato appunto Le 40 tradizioni eccellenti raccolte dall'Imam An-Nawawi, edizioni del Calamo 2002, volume 16 della serie Islam, euro 12. Sintesi dell'introduzione dell'Imam An-Nawawi. Ci è stato trasmesso dall'Imam Ali bin Abi Talib, che Allah si compiaccia di lui, e da altri compagni del profeta, che Allah lo benedica e la bengloria, per molte vie e conversioni diverse, che il profeta, Allah lo benedica e la bengloria, disse: chi impara a memoria a beneficio degli appartenenti alla mia umma 40 insegnamenti riguardanti la loro religione, nel giorno della resurrezione sarà fatto risorgere nella schiera dei fuqaha e degli ulama. Ho fatto istikhara per essere guidato da Allah l'Eccelso nel fare la collezione di 40 hadith sull'esempio di numerosi imam che con buona ragione possiamo chiamare custodi dell'Islam. Questo mio è un florilegio di 40 hadith che trattano tutti gli argomenti, e ognuno di essi tratta argomenti fondamentali e di tale importanza da essere stato definito perlo dell'Islam, metà dell'Islam, un terzo dell'Islam e simili. La maggior parte di essi si trovano nelle due raccolte di hadith autentici di Al-Bukhari e Muslim. È desiderabile che chi aspira alla vita futura in paradiso conosca questi hadith, per quanto essi trattano riguardo a delle cose importanti e per quanto essi forniscono di suggerimenti su tutte le forme dell'obbedienza. E questo è cosa chiara a chi ci rifletta sopra. Nota: i fuqaha sono gli esperti di diritto islamico, gli ulama sono i dottori dell'Islam, l'istikhara è una preghiera speciale rivolta ad Allah per ricevere da lui l'ispirazione per prendere una decisione. Al-Hadith. La parola Hadith significa tradizione profetica, cioè narrazione di un insegnamento del profeta, che Allah lo benedica e l'abbia in gloria. Ci sono diversi generi di hadith. In questa raccolta dell'Imam Nawawi ci sono hadith classificati come sahih. Viene classificato come sahih quel hadith riferito dai due massimi luminari della scienza delle tradizioni profetiche, Al-Bukhari e Muslim e inserito nelle loro opere appunto dal titolo As-Sahih, due raccolte di tradizioni profetiche riguardo all'autenticità delle quali non vi è alcun dubbio. Sono Sahih gli Hadith Muttasil, sono quelli attribuiti al profeta, che Allah lo benedica e l'abbia in gloria, attraverso una catena ininterrotta di trasmettitori. Mutawatir sono quelle tradizioni che molti compagni, Allah si compiaccia di loro, hanno udito dal profeta, che Allah lo benedica e l'abbia in gloria, che molti altri hanno udito da loro e che sono stati registrati per iscritto dopo essere stati uditi da un certo numero di persone, a proposito delle quali non è pensabile che si siano messe d'accordo per accreditare un falso. Mashhur riferiscono detti uditi dal profeta, che Allah lo benedica e l'abbia in gloria, da una sola persona, la quale ne ha riferito ad altre e le altre ad altre ancora, fino alla registrazione per iscritto in una raccolta del secondo secolo dell'Egira. Hasan viene classificato Hasan il Hadith, i trasmettitori del quale furono tutti uomini di fede e fede degni, ma con una capacità di comprensione meno forte di quelli che trasmisero i Sahih. Mursal viene classificato Mursal il Hadith proveniente da uno dei compagni, che Allah si compiaccia di lui, ma riferito da un seguace senza riferimento al nome di quello che ne è stato il primo trasmettitore. Qudsi, con questo nome viene classificato il Hadith nel quale il profeta, che Allah lo benedica e l'abbia in gloria, dice: Allah ha detto. Gli Hadith di questo florilegio dell'Imam An-Nawawi provengono dalle raccolte di Al-Bukhari, Muslim, At-Tirmidhi, An-Nisa'i, Ahmad bin Hanbal, Ad-Darimi, Abu Daud, Ad-Darqutni, Ibn Majah. Hadith numero 1. Omar Abu Hafs ibn al-Khattab, principe dei credenti, disse: udii l'apostolo di Allah, che Allah lo benedica e l'abbia in gloria, dire: solamente per le intenzioni le azioni valgono, e solamente ciò che intendeva sarà riconosciuto a ogni uomo. Perciò, a colui che ha fatto la hijra verso Allah e il suo apostolo, la sua hijra sarà valutata come fatta verso Allah e il suo apostolo, mentre a colui che ha fatto la sua hijra per conseguire vantaggi materiali o per sposare una donna, la sua hijra sarà valutata come fatta verso ciò per cui la fece. Questo hadith lo hanno riferito i due massimi luminari nella scienza delle tradizioni profetiche, l'imam al-Bukhari e l'imam Muslim. Ciascuno dei due lo ha inserito nella sua opera dal titolo Sahih. Queste due opere sono le raccolte più complete di tradizioni sulla autenticità del contenuto delle quali non ci sono dubbi.